בלו טיים לייב. Benissimo, eccoci qua. Allora, un minuto dopo le 21, questo è Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino Splaore, e che assieme al mio fedele compagno, che immancabilmente c'è anche lui questa sera, ciao nonnetto. Buonasera ai nostri ascoltatori. Ho solo messo a posto un microfono, cari ascoltatori, sono entrato con qualche secondo di ritardo, perché tutto live, ci sta Francesca, sì, il microfono, sì. Urca. Non so se avete già capito che serata goliardica avremo questa sera qui in studio con un'artista romana, cioè Francesca Ciommei, ma ne parliamo tra qualche istante. Prima, come di consueto, i nostri dati tecnici, io li chiamo così, ma insomma è nient'altro che il nostro numero telefonico con il studio, lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli sms vi ricordo il 346 23 20 033. Il nostro sito dove ci potete ascoltare in streaming, cioè www.bluradioveneto.it, e lì troverete anche tutte le varie informazioni inerenti ai cantanti e anche ai fatti di cronaca, sempre ovviamente nella nostra regione principalmente, ma poi insomma c'è anche qualche excursus in qualche altra regione italiana e anche al di fuori. E poi appunto le recensioni sui vari artisti. Troverete sempre comunque in podcast, dopo qualche giorno dei nostri live, li troverete sempre per tutto il tempo della vostra vita, resteranno lì, quindi avete modo di scaricarli o ascoltarli gratuitamente. Ve lo ricordo, quindi www.bluradioveneto.it, e trovate tutto quello che volete inerenti ai vostri artisti preferiti. E poi ancora le nostre frequenze, se ci state ascoltando via radio o via etere, come si usava a dire una volta, vi ricordo le frequenze 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. E poi ancora cosa vi devo dire, il nostro sito, l'ho detto, le nostre pagine su Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto, una, l'altra invece è Blu Radio Veneto Rock Wave, gestita dal nostro direttore artistico che salutiamo, cioè Alberto Prisco, ovviamente, e lì potete anche lì trovare tutte le informazioni inerenti alla musica, presentazione di dischi e quant'altro. Ma io devo dare spazio subito a questa forza della natura, noi diciamo qui in dialetto sparata fuori da un canon, e si chiama Francesca Ciommei, e gli diamo il nostro benvenuto. Ciao Francesca. Buonasera, ciao Agostino, ciao a tutti. Benvenuto. Buonasera Francesca. Buonasera Maurizio e buonasera anche ad Alessandro. Buonasera. Ah, è la nostra tappezzeria, lo sai, perché Alessandro è la nostra tappezzeria, Alessandro Modenese. Che cattivo. No, ma lui si vede sempre a trovare, è felicissimo. Allora, innanzitutto Francesca, grazie di aver accettato l'invito. Grazie a voi per avermi invitato, sono contentissima. E di aver fatto tutti quei chilometri oggi per venire qui questa sera, insomma, ci ha fatto veramente molto piacere averti qua. Bene. È un onore, e quindi insomma, sarà una bellissima serata, speriamo, all'insegna della tua voce, della tua personalità e della tua musica, ovviamente. Beh. Grazie, sono onorata. Sei una forza della natura musicalmente parlando, anche per il resto, ma musicalmente parlando sicuramente, dopo aver letto il tuo curriculum, che è vastissimo, parte da una cosa fondamentale, che è questa, un amore viscerale per certi musicisti. Sì. Quali sono i musicisti che ti hanno cambiato la vita? Quelli con cui sono cresciuta, perché quello con cui ascoltava mio papà quando ero piccolina, e lui aveva tutti i vinili, no? Come si usava una volta, adesso sono ritornati, però. Ne ho ancora. Ce ne hai ancora? Bene. Non ne ho ancora, certi pure sono un po' distrutti da me. Vuol dire che li hai sentiti molto. Ovviamente, quindi Armstrong. Mio padre sentiva a manetta, come si dice a Roma, quindi a manetta vuol dire proprio... A tutto volume. Armstrong, e poi veramente Scott devo Joplin. Dire... Scott Joplin. Sonny Rollins. Count Basie. Esatto. Verdi. Vedi, lo sapete anche. Verdi, sì. E poi, vabbè, lui ascoltava anche Yves Montand, ascoltava appunto Paolo Conte, De André, sono cresciuta, insomma, sono cresciuta con questa musica. Ecco. Con questa alta musica. Spero di sì. Sì, sicuramente un spero alta di musica. Sì, spero poi di però sì. Hai deciso di indirizzarti, di procedere verso strade un po' specifiche per modo di dire, tardi dopo, però all'inizio non erano proprio specifiche, erano strade un po', sì. Un sacco di strade. Sì, devo dire che se dovessi dare retta, cioè uno non può fare tutto. Certo. Avrei potuto fare anche proprio lirica, proprio, cioè, perché tu hai studiato opera. Anche lirica, chiaramente. Io ho studiato impostazione tecnica. Cosa vuol dire impostazione tecnica? Impostazione vocale, vocale. E tecnica vocale, quindi... ho cantato per un po' di tempo anche con un tenore del San Carlo, insomma, di Napoli, quando vivevo ad Ischia. Per cui sì, hai fatto qualche anno ad Ischia. Ho fatto sette anni, sono stata lì. La musica napoletana. E ho imparato di un certo quella tipo. In realtà ho fatto quelle cose lì con quel tipo di tecnica, perché appunto non puoi fare tutto. E soprattutto se fai troppe cose, le fai tutte così così. La musica poi... napoletana, scusa se ti interrompo, però quella di fine 800 e primi 900. Sì, sì, sì. Non Gigi D'Alessio, ma non per cattiveria. No. Fare Gigi D'Alessio lirico sarebbe una cosa cioè impossibile. Non è impossibile in ogni caso. Ah, sì, ecco. Impossibile in ogni caso. Con tutto rispetto. Con tutto rispetto, è impossibile in ogni caso. Però non posso dir male. Gigi D'Alessio è molto lontano da questi terreni per adesso. Però Gigi D'Alessio. Siamo perde. No, lui poi oltretutto è un meraviglioso paroliere, cioè è bravissimo nel suo genere, fra parentesi. Però non potrei farlo lì. Fortunatamente. Non potrei, sì. Non mi manca la tecnica per fare Gigi D'Alessio lì così. Ho un capello in un occhio. Beh, comunque sì. Mi è andata una ciglia. Meglio così. Sì. Era una commozione. Esatto. Sì. Aver sentito Gigi D'Alessio. Sì. Quindi hai fatto un po' di musica napoletana. Ho fatto quello, ma insomma, e lì cantavo anche nei locali. Diciamo, proprio nei locali. Mm. Come si canta nei locali a Napoli, ad Ischia? Più che altro a Ischia. Mm. Ma no, lì c'è una vita tranquilla, insomma, si fanno un po' di serate di piazza con appunto con il gruppo, queste cose napoletane. Avevo anche il gruppettino con cui facevo pop rock, insomma, così, e poi facevamo anche un po' di... Però insomma non abbiamo fatto mai jazz proprio, no? Che è quello che mi era rimasto... No, jazz era iniziato prima di andare a Ischia, in realtà io ho iniziato con lo swing, con un chitarrista, insomma, andavamo a suonare nei localini... in posti a Roma, insomma, dove tu magari arrivavi il sabato sera e proponevi, che ne so, All of Me, tutto carino, Why Not Take All of Me, e davanti avevi magari delle tavolate terrificanti di ragazzotti semirasati, tutti arrabbiati, ingrugniti, e tu dicevi, oddio, adesso mi toccherà pugnare per difendere il chitarrista quando usciremo da qui, perché lo picchieranno a lui, cioè ovviamente io vedevo lui da proteggere, insomma, perché era uno molto mansueto, non succedeva niente, alla fine finivamo scherzando e loro gli propinavo appunto come facevi propinare gli standard jazz a gente con che non è abituata, con un po' di ironia. Così gli ho inculcato nella testa anche queste, ho inculcato proprio nei vari cervelli, insomma. Almeno così. E poi vabbè, sono stata a Ischia per un periodo, appunto, ho vissuto lì, insomma, i repertori sono un po' diversi. Sono tornata a Roma, ho ricominciato proprio da capo. Perché hai resettato tutto? Sì, perché dopo 7 anni da Roma, quando manchi, non esisti più. Ti dimenticano. Saltano i locali, cambiano le cose, le situazioni, quindi è normale. Sono tornata Alessandro dice di sì. Lui si annuisce, infatti lo guardo perché lui mi dice sì, assolutamente. Conferma. E quindi niente, ho cominciato facendo proprio il karaoke del jazz. Nel senso che entravo nei locali e dicevo, ma vedevo questi che sono, quanto siete bravi, mi fate fare un pezzo, e questi che suoni, e che cosa fa una cantante che arriva, gli unici pezzi che conoscono tutti nelle solite tonalità, La Carota Gipanema e Summertime, perché erano e All of Me, una concessione. Esatto, ne conoscevo molti di più perché avevo già studiato anni prima con una bravissima Cinzia Spata, che è una grande musicista, e per cui, però insomma, stavo lì. Quindi ecco, niente, così. Poi ho avuto l'avventura di conoscere Carlo Loffredo per caso. E com'è stato la conoscenza con Carlo Loffredo? Casuale. Che molti conoscono, a chi non è fuori del jazz, lo conoscono tutti. È antico proprio, cioè come nel jazz proprio antico, ma è uno, è bravissimo. Semplicemente entrando un giorno al New Orleans Café, che era un locale che adesso non c'è più, l'hanno dato a una banca, fra parentesi. Ah, tra parentesi. E ci sta una banca al posto di questo locale. E che era un posto dove facevano proprio jazz tradizionale, classico, dove c'era Loffredo, dove c'era Patruno, Red Bellini, e quindi sono entrata lì e ho detto, dico, no, ma queste sono tutte le canzoni mie, dell'epoca mia, cioè ovviamente 1910, 20, 30, insomma queste cose qua, ero tutta entusiasta, ho detto che posso fare qualcosa, e niente, gli è piaciuto come cantavo, mi ha detto vieni, facciamo un po' di... ogni tanto andavo lì a trovare, poi insomma alla fine ho cominciato... Sei stato 3-4 anni con lui? Sì, ho suonato 3 anni con lui, insomma. Poi ci siamo un po' divisi, nel senso che Carletto ha un carattere un po' forte, allora ogni tanto discute, insomma, chi lo conosce lo sa, ma da solo, fa tutto da solo, per cui un periodo non ci siamo più visti. Sì. Lui mi ha addirittura cancellato dal suo libro, mettendosi un nome mio, cioè il nome mio non ce l'ha messo, ci ha messo un'altra persona con cui non ha praticamente mai suonato. E poi quando gli ho detto, mi ha detto, ma sai, scusami, sai come sono fatto. Però insomma, a parte questo, insomma, è stata una buona spola. Siamo ritornati, sì, anche perché con lui ho proprio fatto anche cose italiane, pezzi che chi li sente mai, no? Cioè tipo, che ne so, che mi ho imparato a fare, che era un pezzo che cantava, oddio, Sofia Loren, napoletano, bellissimo, e che non si sente in giro, oppure, che ne so, Troppo tardi, che sono questi pezzi degli anni 40, anche 50, poi facevamo, insomma, e anche, insomma, fra i 30 e i 40, bello, e poi tutto il resto. Sì, non mi fate parlare tanto, parlo troppo. No, no, non è che parli troppo, hai fatto capire alla gente una piccola porzione, di, delle tue attività sì, musicali. Sì, perché poi c'è pure il resto. Adesso ascoltiamo il resto, però, e apriamo subito le danze, come si suol dire. Francesca, ascoltando qualcosa dal tuo disco. Sì, con il grande Red Pellini al sassofono, Adriano Urso, scelto, pianoforte. Ho scelto uno standard eccezionale per gli amanti del jazz, insomma, questo è uno dei pezzi più belli, più conosciuti, insomma. Sì, sì. Polvere di stelle, sì. L'ascoltiamo, Stardust. Sometimes I wonder how I spend the lonely night, dreaming of the song, the melody that I never read. And I am once again with you when my love was new. And each kiss an inspiration. Melody the years Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Francesca, eccomi. Eccoti. Oddio. Qua. Qui. No, io volevo subito chiederti, sì. Ma è Red Pellini che suona qui il sax? È Red Pellini che suona il sax alto. Ma è strepitoso. Lui è un grandissimo. È considerato uno dei. Adesso non li suona più, non lo vuole suonare più, purtroppo, perché per motivi proprio di salute, perché pesa tanto il baritono. Lui ha suonato, è uno dei più grandi baritonisti considerati, insomma, a livello oltre che in Italia, anche in Europa, insomma, è uno di questi. Pezzi da 90, è una persona meravigliosa, bravissimo. E adesso suona l'alto perché poi lo suona, non lo riconosco come fu. Ogni volta che lo sento suona mi pare un'altra persona, però è sempre lui che riesce, insomma. E qui in questo CD è stato carinissimo perché oltre a partecipare a dei pezzi all'inizio, poi verso la fine del CD, dove ci sono un paio, due pezzi praticamente con tutta gente sul palco, ho fatto salire tutti per fare una cosa molto più Dixieland, per cui c'è il banjo, ci sono tre fiati più lui, quindi quattro, cioè dalla cornetta al clarinetto, insomma, chi più ne ha più ne metta, diciamo di musicisti, e lui ha diretto su due piedi lì, perché io non potevo mentre cantavo fare adesso voi, perché ovviamente nel jazz le jam. Quindi questa era Sui Giorgia Brown, sì, che esatto. Sentiamo sotto, appunto. Sentiamo sotto. E niente, quindi ecco qua. Poi mi chiedevi un poco fa la gem pilotata. Sì, cos'è? Perché, cari ascoltatori, voi non. È la prima volta che usiamo questo vocabolo. Gem lo conoscono tutti, ma pilotata è una cosa molto interessante. Adesso Francesca ci spiega il pilotato. Me lo sono inventato io questo termine. Ecco perché non esiste. No, in realtà è praticamente doveva essere una gem. Sta abbassando gli occhi, Alessandro. Sì, infatti, no, lo credo. Io non sono molto ortodossa, purtroppo. Faccio venire la pelle d'oca. E che in realtà, appunto, doveva essere una cosa in cui un concerto live in cui si avvicendavano vari musicisti. Io volevo fare una cosa varia, quindi non volevo fare una cosa, capito, io faccio tutto il concerto live con quattro persone, poi ogni tanto magari. Volevo fare una cosa per cui le persone, anche quelli che venivano ad ascoltare, si divertissero. E allora ho riunito tutte le persone con cui io suono normalmente, di più, con cui ho anche dei progetti musicali diversi in piedi, sempre di jazz tradizionale, classico. Dai 10 ai 30. Dai 10 ai 30 fino ai 40. Per i 40. Siamo top, sì, andiamo pure per i 40. Vai. Insomma, ancora tanto siamo giovani. Sì, appunto. E quindi sì, e l'ho fatti salire mano a mano, pensando a una scaletta in cui avrebbero potuto fare questa cosa o quell'altra. Quindi all'inizio ero io con il trio, insomma, poi è arrivato il Red Pellini, abbiamo fatto Stardust, Dyna, poi è salito, abbiamo fatto in duo due voci, due kazoo e un piano, io e Alberico Di Meo, poi è salito Alessandro Russo con la chitarra in due e abbiamo fatto un po' di cabagezza, appunto, c'è questa traccia un po' buffa, ridicola, sotto così, e lui fa Manouche principalmente, e poi vabbè è venuto Riccardo Biseo, che è stato proprio un onore perché è un grandissimo, e mi ha accompagnato, mi ha fatto fare My Funny Valentine, poi è salito un altro amico grande che è un trombonista, che è Michele Pavese, insomma. C'è stata tutta un'alternare. Arboriano. Un arboriano. Sì, era uno di quelli anche del vecchio gruppo di Arbore, esatto, e che comunque, insomma, ancora. E che però suona jazz tradizionale, quindi si è unito a Biseo e abbiamo fatto un pezzo insieme con il trio sotto, cioè con contrabbasso, pianoforte, batteria e trombone. E me, ovviamente, non col trio, sto dicendo. No, non so contare, la matematica per me è un'opinione e quindi è inutile. E poi dopo niente, dopodiché sono saliti tutti. Sì, ma in piena abbiamo dato proprio giù. Sì, il concetto fondamentale, in piena libertà. In piena libertà, diciamo, libertà, era pilotata perché... Una libertà, ecco, pilotata. Esatto, ecco, era una gem perché salivano e facevano le cose. Io gli ho detto, guardate, questa è la scaletta, quindi sì, suonate questo qua al volo così, zazà. e quindi apparentemente era una gemma. Adesso invito sul palco degli amici, pam, para, pam, pam, pam. Sì, ma l'esecuzione era libera. Ma le esecuzioni sono sempre libere. Esattamente, nel jazz è, ancora, libera. È sempre stato e così. Il pilotato era perché io avevo deciso una scaletta e perché avevi sapevo chi sarebbe venuto. Mm. Cioè non potevo far venire chiunque perché sennò diventava un caos e certo, non si poteva fare. Quindi ho comunque chiamato i miei amici musicisti con cui ho progetti, i progetti principali, insomma, e quelli che potevano anche venire perché non certo. tutti potevano venire. Erano disponibili. E ho fatto questa cosa, quindi in questo senso qui era pilotata. Sì, in realtà capito. Poi a livello di musica, e tant'è vero che Pellini, gli ultimi due pezzi che ha diretto su due piedi, all'impronta così, l'ha fatti lì per lì, come succede normalmente, perché poi lui è uno classico che si mette lì e fa ok, te, perché lui è uno che anche ha fatto arrangiamento. Sì, perché giustamente la Francesca mi diceva, mentre gli cantavo, ascoltatori devono saperlo, non ci sono prove, no. Non esistono prove, no. Si va e si suona. Ci si guarda, l'improvvisazione è l'anima del jazz, giusto? Esatto. A volte non ci si capisce, ma a volte però ci si capisce al volo, no? Poi ci sono dei finali strani. Mamma mia. Tranquilla. Fate qualcosa. Aiuto. Il bello della diretta, non ti preoccupare, capita a tutti. Dicevi i finali, no? Che tu non sai mai. Certe volte uno fa un finale, ma quell'altro non ha capito, allora poi te lo rifà, poi quell'altro allora dice no, fermi tutti, rifacciamo il finale. Cioè, così può succedere. Certo. Può succedere, però fa parte proprio di questo gioco, insomma, questo scambio musicale che ha delle regole in realtà ben precise, perché poi le strutture dei pezzi sono quelle in realtà. Cioè i pezzi nel jazz comunque si sa, o comunque uno fa il pezzo, lo fa dall'inizio alla fine, dall'inizio alla fine, tendenzialmente, insomma uno si organizza, a meno che uno durante il pezzo dica no ok partiamo dalla B, che poi è un ritornello in teoria, non si può dire così, insomma adesso lo semplifico, non è esattamente così, ma non mi va di fare una lezione sulle strutture armoniche, ecco. E quindi non mi fate parlare sempre. No, ma stai spiegando. Parlo troppo. Cioè, noi non di suoniamo. Solito. Sì, suoniamo. Sì, no, io volevo solo aggiungere una cosa, se mi consenti Francesca, questo era un estratto dal tuo disco che è uscito da poco, che si chiama The Sunny Side of the Street, il lato soleggiato della strada. Esatto, che è un pezzo proprio questo nome. The Sunny Side of the Street è proprio il titolo di una canzone. Ti sei presa di un pezzo di uno standard dell'epoca. E che poi si riferisce, però tra parentesi, non l'hai messo. L'ho messo perché nel concerto c'era, ma non è venuto bene, senso non era venuto, c'erano problemi di audio perché era proprio il primo pezzo con cui iniziavo, quindi era a metà e non si poteva mettere, quindi non si è registrato, cioè, quindi insomma non l'abbiamo messo, però va bene lo stesso. Questo comunque è un disco tutto dal vivo. È tutto rigorosamente dal vivo. In varie situazioni, vari musicisti. Sì. C'è anche il DVD, fra parentesi, che ho fatto. Ma intanto adesso cantiamo, poi ci racconti un po' di questo disco. No, vabbè, insomma. Vabbè. Sì. Cosa ci proponete adesso? Che proponiamo? Dica lei. Un pezzo... Alessandro, dica. Sì. Un pezzo di un tale Prince. Un tale. Che come vedete non c'entra niente col 1910. Siamo un po' una settantina di anni, eppure abbondanti, più tardi. Sì. Insomma. Ecco, io che prendevo il caso per sbaglio. Dal jazz passiamo al soul, al funky. Al pop funky non si sa. Non che si cos'è? È indefinibile. Prince non è definibile. Non Prince si definisce. E basta. Prince è Prince. Io lo amo. But would even don't have to be beautiful to turn me on. Just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. Just live it your life to me. I'm gonna show you what it's all about. You don't need to be rich to be my boy. You don't have to be cool to prove my word. And no particular sign I'm uncompatible with, cause I just want your extra time and your key. I want you to gotta learn to talk dirty, baby. If you wanna impress me, I can be flirty, mom. I know how to undress me. I wanna be your fantasy. Maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich. You be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Time and your kiss. You can buy what you can buy, make me the air, but you can get up my arm. You get the gun, but you can't come up on. I'll put what you're gonna get back in the pot. Ain't a pot, ain't a pot, but you buy a day. Muddy bow, papa, your boy, and I am a cank tea. A man, la potevi allungare a dismisura. Era diversa, sì. Era diversa. Bravissime, bravissime. Le credevi? Alla chitarra Alessandro Modenese. Alessandro, ah no, non mi serve. No, me lo devo... no, te lo devi mettere la cuffia. Ma me l'ero tolta la cuffia per parlare. Ha rotto il ghiaccio adesso. Vabbè, che te lo dico a fare. Detta alla romana, scusatemi. Sì. Splendida versione. La svampita. Come svampita? No, no, è bellissima. No, no, io. Sei bravissima, sei bravissima. Grazie, ci hai regalato un momento molto molto molto emozionante. Poi pago pensa... bene. Grazie. Allora, questo era perché ti piace come artista Prince, o ti ci vedi un po' a cantare questa canzone? No, gli stavo facendo i complimenti, Alessandro. Ah, troppo sì, bravo. Sì, sì. Mi detto... sono divertita. Sì. No, dicevo, perché ti piace Prince come artista, quello che fa, o perché ti piace particolarmente questa canzone? Ma io non ascoltavo solo quello, appunto, quando dicevamo una piccola parte. In realtà io adoro anche gli anni 80, ma non solo, pure gli anni 70, ma pure, gli anni, pure il rock and roll. Ma Prince si presta, Prince, cioè, io lo amo. Chi si presta molto ai vocalizzi, puoi andare dove vuoi. Penso di sì, in realtà è uscita fuori così, nel tempo, mano a mano che la suonavo, quando faccio pop. L'hai perfezionata, la canti così? No. Cioè la canto anche, stasera è uscita così perché ho detto come la faccio, io la volevo fare swing, pensate, per un'altra cosa. E lui, ho detto facciamola un po' swingettante. Ma molto funky. E lui mi ha detto no, facciamo così, perfetto, io ho detto andiamo, come si dice? Andiamo. Andiamo. Dove porti? Ok, dove mi porti io arrivo. Eccolo là, gli va per traverso di tutto. Aspettiamo che si sistemi. Il povero Alessandro si è strozzato. Alessandro, visto che hai rotto ghiaccio e sei già scaldata la voce, io direi di fare subito un'altra, perché so che tu sei venuto qui a cantare. Tu sei venuta, quindi hai voglia di far sentire la tua voce? Cosa, no, vabbè. Cosa ci proponete? Poi magari ne parliamo un pochino. Police. Cosa di Police? Un pezzo proposto da Alessandro, con grande gusto. Every Breath You Take. Ah, bene. Eccoci. every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Oh, can't you see you belong to me? How my breath takes with every step you take, every move you make, every wall you break, every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Since you've gone, I've been lost without a trace. And at night, and I can't see your face. Look around, but it's you I can't replace. I'm so cold and long for your embrace. I keep crying, baby, baby, please. Oh, can't you see you belong to me? How my breath takes with every step you take. Every move you make, every wall you break, every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Every move you make, every step you take, I've been watching you. I've been watching you, every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, every move you make, every break you break, every smile you fake, every claim you stake, every move you make, every wall you break, every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. I've been watching you. I've been watching you. Sembra quasi una ballata, Sì, beh, l'ha fatta in versione... In versione molto soft, sì, soft, un po' blues, con un pizzico di blues. Stai ridendo adesso, Francesca? Stai ridendo? Ma ci abbiamo fatto un finalino, sì. Bellissimo, lo adoro, è bravissimo, troppo divertente. Sì, giustamente diceva Agostino che l'hai molto rallentata, assolutamente rallentata. Mica io, lui. Beh, lui questa lui è la sua versione. Ah, la sua versione, quindi sei stata catturata dalla versione di Alessandro. Bazzini. Assolutamente sì, bisogna seguirsi. Esattamente, quindi l'avete rallentata, posso dire così adesso, sì, l'avete rallentata, sì. E ci hai dato un pezzettino anche di blues all'inizio, poi no, poi si è sviluppata. Beh, si è sviluppata. sviluppata. Potete andare avanti all'infinito anche con questa. Vogliamo continuare? Sì, beh, come no. Abbiamo, tanto, io sono arrivata da Roma, ho tempo, fino a domattina ci sono. No, quindi è proprio jam session in tutti i sensi anche questa. Qua si capisce, chi ascolta capisce veramente come si crea un pezzo al di là di tutte le regole. Alessandro l'ha creato, t'ha condotto in una certa maniera e tu l'hai seguito. Sì, sì. Devo dire la verità, io sono cresciuta con le cose in chiesa, cioè con nei cori di chiesa, certo. I cori musica sacra, queste cose così. Quindi ero abituata con lo spartitino così carino, tutti qua precisi, non c'è niente. Mi piace molto. Ultimamente ormai sono diventata un po' selvaggia, insomma, lo stato brado, e veramente mi diverto, perché anche nel pop non riesco più a fare la cover in quel modo. Quindi a me, se trovo una persona che si dà proprio così, che va, che costruisce alla, e via, io vado. Alessandro è uno che costruisce del pezzo stesso, lo crea, lo allarga, esatto, a suo piacimento, esatto, è quello che faccio pure io, quindi va perfetto, e quindi vi siete trovati perfettamente. Visti un'ora fa, si può fare, no? No, diciamo la verità, sono 3 mesi che proviamo questo pezzo così. Se andava male qualcosa, no, non è vero. Senti, io ho alcune curiosità da togliermi, Francesca. Sì. Innanzitutto, perché non canti in italiano? Canto anche in italiano, ma volendo. Canti pochissimo però in italiano. Mica tanto, no. Dipende, se me lo chiedono. Sì. Paolo Conte, poi che ne so, Tenco, poi ma che ti ne so, se stasera sono qui, però in mi... No, non so se era in mi... No, insomma, no, non era. È perché ti voglio bene. Però non la voglio cantare tutta adesso. No, no, pezzettino. Pezzettino. È perché tu hai bisogno di me. Anche se tu non lo sai. L'ha fatto tanti anni fa Wilma Goy, ce la fai meglio secondo me in questo momento. Che carino. Della Wilma. Wilma. Dammi la clave. No, quella è un po' diversa. Era brava. Ma che scherziamo? Beh, era romana d'adozione, con Vianello ha fatto un duo per un po' di tempo, poi ognuno ha preso la propria strada, eccetera, esatto, eccetera. Però aveva fatto questo pezzo di Tenco, un 45 giri che si regalava col sapone Camaio, sapete? All'epoca. Ok, cambiamo pezzo. All'epoca c'era sapone Camaio. Facciamo che regalava il sigo. Pino Daniele. Che ho fatto pure quello. Poi io te le canto. No, veramente ragazzi, no, fermi tutti, no, parliamo, no, dai. Sennò no, veramente no, abbiamo solo fatto uno. E voi non aprite più bocca, perché io comincio a cantare con poveracci, mi zittisco tutti. Ma la trasmissione è fatta così. E noi poi siamo abituati a non rispettare la scaletta, quindi... Perfetto, non rispettiamo. Quindi vai tranquilla, senza nessun problema, se sei in diretta è bello proprio per questo. Quello che ti viene in mente di fare, fai. Se vuoi cantare qualcosa di Pino Daniele, fai pure. Qualche flash, Alessandro, tu che sei un posto di scienza musicale. Andiamo avanti. Adesso parliamo. Sì, io volevo chiedere un'altra cosa a Francesca Maurizio. La tua esperienza con le colonne sonore. Dunque, allora, io non ne ho moltissima. Sì, lo so. In realtà io scrivo canzoni in varie lingue. Citiamo le stesse lingue, portoghese, in inglese, in francese e in portoghese, in portoghese, pardon, in spagnolo, non, anche in portoghese, io canto in portoghese, portoghese. Sì, anche. Però scrivi invece in inglese, in francese, sì, e spagnolo. In francese mi faccio aiutare, nel senso che so quello che voglio scrivere, ma scrivo in modo sgrammaticato, nel senso mi faccio correggere proprio le cose, tipo gli accentini mi mancano, quelli sì. Inglese e spagnolo, allora, quello sì. Quindi inglese e spagnolo me lo sono gestita da sola. Tanto canti in spagnolo, insomma. Canto anche in spagnolo. Cioè, per esempio? E qui io ho portato il pezzo mio. Ah, vabbè, allora che è Encima de mi vida. Vabbè, lo fai dopo. Dopo lo facciamo. Sì, dai. Già vedevo che scartava. Qui, insomma. E quindi mi è capitato di essere chiamata da un mio amico che è un montatore, insomma, cinematografico, operatore, che è il fratello piccolino che ho visto crescere di un mio amico storico, che è Massimo Metallo, che è, insomma, ormai praticamente un fratellone mio. E questo praticamente mi ha detto questo ragazzo, dice, perché non vieni, c'è una colonna sonora, ci sono da fare dei pezzi, delle cose al volo, va bene. E quindi ho fatto questo pezzo che si chiama Insieme di mia vita, insieme a Daniele De Salvo, che è un chitarrista cantante molto bravo, è stato messo in Sandrine nella pioggia, che è un film che, oltretutto, lì ho fatto anche un altro pezzo in combutta con altri due ragazzotti, dove però, visto che non risulto neanche come autore, ma io sono registrata in Rai, cioè in Rai, una notte in SIAE, che è Rolling Star, che in realtà il cui titolo originale in realtà è Chanson de notre amour, per cui non ho capito che cosa è successo, ma non mandava di andare a fare questione, e quello in francese. Ah, capito. Ecco. E, beh, e poi invece In cima de mi vita è stato preso anche per Alza la testa, quello con Castellitto. Ah. E me l'hanno messo anche lì. Non ho ancora visto una lira di SIA, perché si sono presi tutti quelli della Warner. tutti i soldi l'hanno presi quelli della Warner. Eppure io sono io, l'ho fatto io. Però insomma, vabbè, che devo fare? Va bene così. In realtà i pezzi lì sono in questi due film sono molto più movimentati, sono delle salsa, praticamente ritmo di salsa praticamente. Invece come era nata originalmente era molto più tranquilla, come poi la faremo noi dopo. Ma sì. Non ti viene voglia di continuare a fare ancora a scrivere canzoni per dei film? Come no? No, ma ogni tanto scrivo, io ho anche dei pezzi di swing che mi scrivo e poi compongo e poi me li suono durante le serate di swing, ovviamente li registro. Certo. Insomma così, ma anche in italiano delle cose fa anche, ho fatto però insomma ancora non ho io sono un po' pigra, più che pigra sono un po' disorganizzata, dico adesso faccio una cosa e ci riesco dopo tre mesi a fare quella cosa che magari pensavo di farla dopo una settimana. Certo. Senti, già che parliamo di te che stai scrivendo, come, a proposito, come nascono le tue canzoni, Francesca? Le canzoni tue non mie sì, non gli standard, dico. Sai che ti viene non in mente so. Qualcosa? Certe volte sì, ho delle magari sto in macchina e canticchio senza canticchiare niente, però mi vengono in mente delle cose, dei ritornelli, delle e poi dopo dico "Ah, che cavolo, aspetta un minuto, mi fermo molte volte se posso e butto giù la cosa, così non ma se posso registrarla in qualche modo, perché ovviamente uno non è che sempre può scrivere, cioè non scrivi da nessuna parte. Oltretutto non sono velocissima nella scrittura proprio musicale, mm-hmm. per cui quello ci metto un po' di più, dopo mi devo mettere lì a scrivere. Tu scrivi tutto, che testo e anche musica? Anche la musica, ma lì ci metto un bel po' di più, perché da brava cantante non ho una pratica, non essendo una strumentista, mm-hmm. proprio è così, ci metto un po' di più. Certo. Faccio cose insomma evolutissime, però insomma metto lì e faccio. I tuoi pezzi in che scaletta vengono? Un po' di conservatorio l'ho fatto, perché insomma fortunatamente. I pezzi che scrivi te, i tuoi pezzi originali, sì. Quale scaletta li proponi? Fra le tante scalette, qua ce ne sono un sacco di scalette, sia in italiano, di progetti. Per esempio con i Dob, con i Dock of Bacon, Daniele Baby, De Saldo, abbiamo svariati pezzi. Da Prince a Eric Clapton, esatto. Però ci metti i tuoi pezzi dentro. Sì, ci sta appunto Insima, che è certo. nostro, e poi di fuori, diciamo fuori cinema, ma proprio solo nostra, ovviamente non editato, non abbiamo fatto, cioè non abbiamo nessuno che ci ha fatto l'edizione. Ho capito. Però sono depositati, quindi che ne so, ci sono pezzi tipo, ce ne sono un po' pure lì, pezzi quasi blues in italiano. Sempre scritti da te, questi. Sì, scritti da me, e ce ne sono certi con due versioni, perché per esempio ne avevo fatto tipo di un pezzo che era molto funky, che era proprio mio quello. E io l'avevo fatto tutto in italiano e c'era tutta una storia di questo, che era un po' femminile come spirito, nel senso rispetto a lei che invece era una specie di ruspa, e lui soffriva tanto, insomma, ha preso a questa donna che non gliene poteva fregare di meno, e lui carino gli stava dietro e tutto, però Daniele mi ha detto no, non mi piace, quindi ho cambiato e il testo è diventato di uno che per esempio in inglese va in un ristorante, dice "Ah, ma che bello, un po' di fame", e comincia, e c'è una sfilza di roba tutto in rima, col cappuccino, poi si prende le patate fritte, poi prende il pollo, poi un po' di vino, però insomma mi raccomando, il migliore che avete mi porta bianco e rosso, insomma. Cose così, insomma. Il pusher che ti dà, tienilo, perché ti dà roba buona, vero? Io vivo di acqua minerale. È vero, camomilla e acqua minerale, il mio stupefacente preferito è la camomilla, giuro. Beh, io vi posso svelare un piccolo segreto tra me e Francesca, nel senso che come ogni qualvolta io la chiamo al telefono, a parte che facciamo telefonate molto lunghe perché stiamo bene insieme a chiacchierare, ma poi mi diverto un sacco, Alessandro, guarda, è una cosa, poi tu l'hai sentita anche tu spesso e volentieri al telefono, ma mi diverto perché lei riesce sempre a darmi quella carica, quella forza, lei è sempre così, come la state ascoltando adesso, non l'ho mai trovata una volta che sia seria, e anche se è seria lei ride, sorride, è sempre vivace, è sempre allegra. Questo ti fa veramente, ti rende onore. Grazie. No, io riesco anche a essere terrificante. Ma non con me comunque, come no, non l'hai mai fatto. Però ci riesco. Ci riesci, vabbè. Quando vado nel melodramma divento terribile. Sì. Sì, sì, sì, sì, sì. Poi, insopportabile. Un'altra cosa importante, fra i tanti progetti, c'hai questo acoustic trio col sax e il flauto. Il flauto non l'hai mai citato. Guarda. Quello interessa il flauto. Eric flauto. Daniel. Esatto, Eric che Daniel. Che è un sassofonista bravissimo, statunitense. negli ultimi tempi si è fissato, ha detto io voglio fare flauto. Mi fa, Francesca, io voglio fare flauto, mi sono messo qui, ho deciso che voglio fare un salto di qualità. E questo già quando suona in sassofono è cioè una meraviglia. E ma col flauto, cioè adesso io non lo so, cioè, è bellissimo. Per cui noi facciamo questi pezzi, appunto, Kiss, facciamo da Stevie Wonder, questa roba qua, con Pino Iodice alla chitarra. Pino Iodice alla chitarra, sì, esatto. Ovviamente trattati quasi come standard jazz, nel senso che noi partiamo, non sappiamo come va. E come dicevo prima, da Agostino, a te, non mi ricordo, è una specie un po' borderline, non si capisce se è jazz o pop. In realtà il chitarrista è un chitarrista pop che proviene dalla musica classica, con qualche infarinatura di armonia e jazz, è un, quindi è molto un jazzista, bravo. Jazzista, assolutamente. È Eric. Bravissimo. Eric Daniel è un jazzista, ma fa anche funky, fa anche. Lui e tu cosa sei? Che ne so. Ma i miei amici, i miei amici che colleghi musicisti di jazz tradizionale mi fanno: tu fai troppe cose, perché così non ti si identifica. E io ho detto: lo so. Poi vado a quelli che fanno pop e fanno: ma tu fai pop perché adesso che vai a fare quella roba così e qua là su e giù tu fai quelle cose. E io dico: lo so. E io non so chi sono io, non lo so. E poi mi piace la napoletana classica, proprio struggente. E questo è. E, questo è. E questa mentre, è Francesca Ciumai. Che devo fare? Che adesso ci fa ascoltare cosa? Che vogliamo fare? Aspetta, non me lo ricordo. Ah, uno swinghettino col kazoo. Citiamo che strumento è il kazoo. Il kazoo, il kazoo. Fai sentire un momento il suono. Perfetto. È uno strumento a fiato, molto del jazz primigenio, e molto semplice, che consta di insomma un corpo e una, a un certo punto c'è una membranina, tipo di una specie di carta velina, una cosa del genere, non proprio, un po' più robusta. E si suona, non ha tasti, non ha niente, quindi non ha punti dove mettere le note. In realtà si suona con la voce, quindi quello che tu gli dici, se fai, lo sto facendo io, mi sto facendo la scaletta così, quindi in realtà ha l'estensione di chi suona, di chi canta, per cui così. E io lo uso così, impropriamente. Adesso facciamo poi. Mi piace molto, mi diverte tanto. E l'ascoltiamo. Adesso ci divertiamo un po', anche prima, però. Ok. Anything but love, baby, that's the only thing I've heard enough, baby. Dream a while, skim a while, and you're sure to find happiness in a kiss. All those things you always find. For gee, I like to see you looking swell, baby. A bracelet with a diamond, it doesn't say my pretty baby. Until the lucky day, you know that well, baby, I can give you anything but love. Anything but love, my baby, that's the only thing I plan enough, baby. Dream of what and scheme of what and you should to find happiness, and I guess all the things you always find. For gee, I like to see you looking swell, baby. A bracelet, boob or diamond, they doesn't say my pretty baby. Until the lucky day, you know that well. Baby! Bellissimo, bellissimo. Divertente, assolutamente divertente. Com'è che si dice in romano ti sto ascoltando? Ti sento? No. Te sto ascoltando. Lo dice in francese. Massimo Fuccio. Massimo Fuccio. Ah, ma... Medallo, ciao! Hai visto che ti ho nominato? Ciao Massimo, buon proseguimento all'ascolto di programma con Francesca e con Alessandro Modenese alla chitarra, ma poi con Agostino Maurizio a cercare di capire qualche segreto di questa artista romana, di questa sua sviscerata passione per la musica, possiamo dire così? Sì, sì, sviscerata. Ce l'hai proprio nel sangue questo. A proposito, senti, te l'avevo già chiesto prima fuori diretta, prima di cominciare la trasmissione, ma tu se sei a casa da sola, adesso voglio vedere cosa mi rispondi, cosa ascolti? Te l'ho detto che io, non sia la tua musica. Ma guarda, io sento veramente un po' di tutto. A questo punto, cioè dalla musica appunto degli anni Ottanta, da Stevie Wonder a Prince, ma poi arrivo pure all'opera, per cui insomma Verdi è quello che dicevo prima, insomma poi alla fine perché Beatles, Bach va a morire, e Mozart. Beh, che te lo dico a fare? Bach, come mai ti piace Bach? Bach è astratto, secondo me. Cioè, proprio io che non fumo, non bevo e vivo a crudo e scondita. Praticamente scondita, io vivo scondita. E mi entusiasmo per la pasta all'olio, insomma, sono l'unica che fa yuhuah! Ed è Roma, pasta all'olio, non è ma proprio... Insomma. Cioè, lì proprio con questi bucatini, sì. Terrificante. Vabbè, io provengo Marche Emilia, insomma, quindi comunque sia... Però Bach, mamma mia, secondo me è proprio astratto, ci sono delle cose che sono come delle volute di fumo nell'oscurità, bellissime, chiare, cioè non ve lo so spiegare, a me è proprio, a me piace proprio tantissimo. Hai tentato di riproporlo in chiave? No, è impossibile. No, lo ascolto, va bene. Lo senti e basta, lo ascolti sì, e basta. Sì, sì. Non vuoi... L'ho cantate delle cose quando stavo... Ma no, con i cori, le cose, delle cose sì, arrangiate per... Arrangiate in quella maniera. Sì, sì. Bach, la fila. No, mi piace sentire. Ti piace sentire. Sì, sì, sì. A me, io ricordo Bach, sono un rocchettaro, mi devi scusare, attraverso Keith Emerson, i Nice, i concerti di Brandeburg. Certo. Quindi, una girata di quel genere, bellissimo, caspita. Bene. Vedo che lì si è spenta la luce. Sì, no, infatti meglio le fotografie, per quel motivo. Ringraziamo anzi la Patrizia Scanferla che è venuta a trovarci questa sera, che poi tra l'altro si sono conosciute con lei, con Francesca. In che occasione, Francesca, vi siete conosciute? Tanto tempo fa? No, non è vero, poco tempo fa, più o meno, due anni fa. A Sorrento. Ecco. Dove praticamente stavamo lì tutte e due prezzolate per dei tedeschi che dovevano fare, un gruppo di tedeschi ricchi che dovevano fare avevano una cosa premio, una gita premio, insomma così, con musica. E io cantavo lì, non mi ricordo con quanta gente, se eravamo quante persone, eravamo tipo 4 o 3 persone, vero? C'era il chitarrista, il flautista o il mandolinista? Mandolino, vero? Sì, no, perché non mi ricordo, io sono un po' svampita, per fortuna lei mi ricorda, mi fa tutti i gesti. Era mandolino, chitarra e voce. E facevamo il repertorio napoletano classico, quindi proprio la posteggia in costume, tutti costumati, sì, molto costumati. Io sono costumata, per fortuna sì, anche un po' svampita, ma costumata. E c'era... Oddio, accidenti, ho avuto un attimo. E c'era lei che praticamente cantava insieme a un altro, non mi ricordo come si chiama, Mirko, che praticamente è un sosia di Celentano. Ma era bravo comunque, lo faceva molto bene, devo dire. Poi noi siamo andati via, insomma, abbiamo fatto prima perché eravamo prima. E quando questi facevano le lasagne fatte a mano. Ti ho fatto questa sorpresa, hai visto? È venuta qui in radio, è una bellissima cosa. Ciao, guarda, sono così contenta, bella. Mi ha fatto veramente piacere tanto. Poi è una persona così carina, brava, poi... Sì, bella voce. Io amo fare le carambate, come si suol dire. Proprio una carambata, infatti io l'ho detto prima. Ammazza, questa è una carambata. Allora, questa invece è Blu Radio Veneto, quella che state ascoltando è la voce di Agostino, che assieme a Maurizio sta regalandovi un po' quest'ora e mezza in compagnia di Francesca Ciommei, che ci raggiunge da Roma. Alla chitarra c'è il nostro carissimo amico, mai fedele, compagno di tante avventure qui a Blu Radio Veneto, cioè Alessandro Modenese. Io vi ricordo sempre i nostri numeri, quello telefonico, quello in studio è lo 049 875 6423, mentre per i vostri sms, se ne volete mandare, se avete qualcosa da chiedere a Francesca sarà ben felice di rispondere, vi ricordo il 346 23 20 033. e poi ancora il sito, cioè www.bluradioveneto.it. l'altro invece è la pagina su Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto, l'altra è Blu Radio Veneto Rock Wave. E poi cosa devo dire? Frequenze 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Sono quasi le 22, è giusto il momento di ascoltare un'altra canzone. Io voglio sfruttare, se mi passi questa espressione, Francesca, la tua voce. E dal CD? Non c'era Dina adesso? Mettiamo dopo Dina. Adesso ci fai qualcosa dal vivo. Dal vivo, live. Noi vogliamo sentirti dal vivo. Summertime. Bene. Classicissimo. Un classico al 100%. Sì, acceso. Sì. And your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Going to rise up singing, rise up singing. Then you spread your little wings and you'll take the sky. But it at morning comes, there is nothing can numb you, babe. With daddy and mommy standing. Summertime, and you're leaping, it's easy. Fish are jumping, and your coat on is high. For your daddy's rich, and your ma is good looking, babe. So hush, little baby. Come sempre meravigliosa, Maurizio. Sì, è stata bravissima perché la... Dimmi, beh, lui è stato senza bravo, di lui. Senza di lui, chiaramente. Però dobbiamo tenere conto che hai cominciato come classicamente, assolutamente sì. Classicamente. Poi Alessandro ti ha portato in un mondo un po' leggermente meno classico e poi sei ritornato al classico. Esatto, basta. Io, come rocchettaro come sono, mi ricordo la versione che ne ha fatto Janis Joplin un po' di tempo fa. Madonna. Un po' di tempo che fa. Grande che era. Era grande, era grande. E sapeva gestire il blues come da una donna veramente straordinaria. Sì. Tu l'hai fatto benissimo, hai fatto classica, hai cambiato poco stavolta, hai un piccolo aggiuntino, hai fatto un omaggio, secondo sì, me. Sì. perché questo pezzo non si può cambiare tanto. Beh, Dio, sì, si può cambiare, cose che... si può cambiare, però stasera non l'hai cambiato stasera, eccessivamente. Sì. Okay. Ma non si può sempre cambiare per forza tutto. A volte anche proprio dipende, insomma, anche rimanere a volte è un cambiamento. È vero. Hai ragione, perché tutti quanti quando si cambia uno rimane sempre. Dipende da quello che senti. Esattamente, esatto. Questo è vero. L'importante è che tu mentre lo senti è nuovo. Bene. Per te, insomma, sì, certo. Ti rubo qualche secondo, Francesca, perché devo fare un annuncio per un evento molto importante domenica 14 aprile 2013. Si chiama Stay Rock. E pensate, inizia alle 10 della mattina e termina alle 8 di sera, quindi è uno stop lunghissimo. Viene fatto all'antica trattoria Dan Gambaro. Ci sono 5 band che suonano, cioè Anime, Microdisco, Blu-rays, The Italian Blues Brothers e Danny Live Band. Ma oltre a questi concerti dal vivo, ci sarà anche un concorso canoro per talenti talentosi e talentose, insomma, riguardate sia le ragazze che i ragazzi, e si chiama On The Rock Contest. Chi volesse partecipare, insomma, basta che porti delle canzoni edite o anche delle canzoni inedite, cantautori, gruppi musicali emergenti, eccetera eccetera. Se volete informazioni più dettagliate, basta che telefonate al 335 123 8154, oppure direttamente, credo, all'antica Trattoria da Gambaro. Vi ricordo, domenica 14 aprile, l'area convegni dell'antica Trattoria da Gambaro si trasforma quindi nella più grande festa del Veneto. È un timballo di musica live, come lo chiamano loro, quindi vi ripeto: Anime, Blu-rays Live Band, Danny Live Band e Microdisco The Italian Blues Brothers. Quindi festeggiate con loro, andate a trovarli dalle 10 della mattina alle 8 di sera, quindi è un evento molto importante. Oltretutto c'è questo concorso canoro per i vari cantanti emergenti, e insomma cantautori, brani editi, brani inediti. Quindi c'è la possibilità di svariare come volete. L'appuntamento, ricordo, è per domenica 14 aprile 2013 all'antica trattoria da Gambaro. Fra le tante cose che hai fatto, hai fatto anche il fumettista. Che bello, fare il fumettista di tiramolla, dai. Sì. Io ho iniziato, ho fatto il cine e tv. Ah, cine e tv. Sono un disegnatore d'animazione, tecnico cinematografico generico e disegnatore d'animazione. Facevo proprio i cartoni animati. Bello. Infatti mi chiamano Chommix. Chommix. È vero, vengo chiamata Chommix. Da qualche amico o amica. Chommix, vabbè, sono io. Eh sì, e poi ho pure lavorato per Tiramolla, che era un famoso fumetto. Era un famoso fumetto che io da piccolissima odiavo, e poi la nemesi si è abbattuta su di me quando sono diventata grande. Dove ho trovato lavoro? Lì, a fare Tiramolla, a fare una cosa terribile. È stata proprio una punizione di mai più di noi. Sì, è una punizione. Dopo di me ha fallito, no, non è vero, cioè, però dopo di me hanno chiuso, ma non per me, insomma, sì, spero, non lo so. Si vede che sei una grafica, perché ti interessa di fumetti, perché la costruzione della copertina del disco l'hai fatta tutto da... Sono fatta tutto da tutto sola. Da sola. Sì, e questo è importante. Cioè, tu produttrice. Io sono un disegnatore di base. Esatto. Tu sei una produttrice, hai prodotto le diverse sequenze dell'album, che non è una cosa semplice, è una cosa molto complicata. Non lo so. Sì, secondo me sì. Ah, sì, allora è complicata. Lo so, sì. Diciamo che di necessità ho anche fatto un po' perché mi piaceva, perché mi piace proprio. È un po' anche perché i musicisti qui o trovano uno sponsor per fare una cosa così poco commerciale, nel senso di jazz, di cose particolari e tutto. Non era smooth, non era... Ho detto, vabbè, intanto mi autoproduco, ho messo da parte i soldi per un po' di tempo e poi ho fatto questo sforzo economico, no? E poi perché mi piace, anche nel DVD che ho seguito, cioè è stato, le riprese sono state fatte, insomma, da una persona che ha fatto anche le riprese audio, che è Antonio Parisi, lo ringrazio, lo saluto, e, molto bravo, paziente, insomma, ha fatto tutte cose. Poi però la regia in post produzione del video me la sono montata, cioè quindi ho detto fai così, preso e fai tutta la responsabilità. Sì, quindi se fa schifo quando lo vedrete, se non vi piace è colpa mia, non è, Antonio non c'entra niente per fortuna, però se vi piace è merito mio. Tieni, è così, voglio giusto almeno questo. Sì, insomma, mi sono molto divertita. È stata una bella esperienza. Sì, è stato un po' anche come tornare a scuola, perché io all'epoca facevo anche montaggio, cioè quando stavo al CineTV miliardi di anni fa, altro millennio, veramente. Ormai siamo... Ma Agostino ha parlato prima di cinema, le vie sono sempre aperte. Ma lei tutto può essere, magari fosse. Magari lei fosse. È radicata su tutti i settori, insomma. Non te ne sono radicata. Ma in realtà io ho poche conoscenze, in effetti, perché sono una che non cioè, non in realtà io conosco molta gente, però non... No, però ha un carattere poco... Ci sono persone che si vendono benissimo per quello che fanno e sgomitano moltissimo e arrivano dovunque e magari hanno molto meno da fare, diciamo, come varietà. Insomma, fanno magari una cosa, fanno quella, e vanno. Però hanno il coraggio, hanno la concentrazione, hanno uno spirito diverso dal mio, evidentemente. Sono un po' così, insomma, un po' naif, no? Vengo come va, insomma, va come va. Vado come vado. Infatti, ultimamente no, sto cercando di essere un po' più seria, sì, anche perché il CD me l'hanno imposto. Mi ha detto: tu non fai niente, non c'è un CD, non c'è niente. Io sono con loro. Sì. Perché voci come la tua, ne parlavo poc'anzi. Grazie. Con Patrizia, deve avere un disco. Insomma, qualcuno se ti vuole avere in casa da sentire, ecco. Mica può andare su YouTube, esatto. A scaricarsi i video. Che poi tra l'altro c'è un audio che non è neanche... Non è un granché. Ecco. Ma adesso invece voglio fare quello di pop, quello appunto vorrei fare nel tempo, se ce la faccio, lì pure sarà un'altra... Una bella fatica. Sì. E poi un altro viaggetto a Padova. Certo. Col disco pop. Certo, prima vinco un po' l'Enalotto. Prima sì. Devo vendere questo. Parlavi del disco, credo sia doveroso da parte nostra, da parte tua anche ovviamente, sì. di salutare i musicisti che non sono... Esatto, sono tantissimi. Io vorrei proprio dire questo, che in questo CD hanno partecipato grandi musicisti, tutti sono grandi, cominciando diciamo in ordine più o meno di apparizione, adesso ve li elenco, non in ordine di grandezza, ma dall'inizio dei primi pezzi, appunto al pianoforte c'era Adriano Urso, Guido Giacomini al contrabbasso e Alfredo Romeo alla batteria, poi si è unito Red Pellini al sassofono alto, poi c'è stato Alberico Di Meo, abbiamo fatto una cosa in duo, e poi c'è stato Alessandro Russo in duo con la voce. Poi c'è stato appunto, sono ritornati Giacomini e Alfredo Romeo ed è venuto Riccardo Biseo e poi si è unito Michele Pavese al trombone. E poi è passato anche Luca Rogero Iacovella, che però nel CD non c'è, è nel DVD, perché purtroppo ha fatto un pezzo solo di corsa e per cui non è un bravissimissimo pianista, grande, però è passato così e quindi l'ho potuto salvare solo... dove si salvava il appunto il DVD, dove abbiamo potuto fare qualcosa, quindi sta nella bonus track del DVD. E poi insomma alla fine c'è stata la jam finale con banjo, dunque pianoforte di nuovo Alberico Di Meo, ritornato lui, batteria Renato Musillo, banjo, Enzo il Grande, che è un altro arboriano della vecchia guardia, che suonava con Pavese e Renzo Arbore all'epoca di Cari Amici Vicini e Lontani, sì. Dove io l'ho conosciuto tanto tempo fa, ma non devo dire, perché sennò si capisce pure quanti anni ho. diciamolo, 35. Diciamo. Ecco, va bene, grazie. Prego. Bellissimo. E mi sento... Hai pagato bene? Certo, ho pagato bene, adesso tolgo le bende, sì, sì. E mi esco fuori dalla cripta. E insomma così, e poi praticamente, poi ci stavano, dunque Pucci Scarpato alla cornetta, Andrea Tardioli al clarinetto, Michele Pavese al trombone, Red Pellini al sax alto, che ha anche diretto il pezzo, è risalito Alessandro Russo, e quindi abbiamo fatto io alla voce il casù e abbiamo fatto tutti insieme in questo locale minuscolo che è il Gregoris, che è il Jazz Club di Roma, che è un tempietto del jazz, dove però insomma si sta molto bene. E abbiamo fatto questo gem finale con i pezzi questi proprio corali. Insomma, è stato difficile però condensare 10 pezzi sui 3 ore o circa del concerto? No, il concerto in realtà comprendeva più pezzi, in effetti. Qualcuno è stato tolto, certo. Appunto, perché o non era venuto, o per esempio nel DVD passavano le persone davanti. Già fra questo, per esempio nella bonus track ce ne stanno, insomma, 5-6, non mi ricordo, come citazione, cioè proprio di corsa, no? Certo, messi così, passati così. Esatto. E quindi, insomma, fra 10-20, insomma, è stato un bel concerto, un paio d'ore e mezza abbondanti, sì. Quindi, insomma, gli abbiamo dato giù, come si dice. Gli dai Senti, giù. Voi che torniamo appunto al disco, ascoltiamo qualcosa dal disco, giusto per chiudere il cerchio inerente al disco, perché tu sei... Si può attingere ovunque, tu ci sei, quindi ci sono sempre, mamma mia. Però adesso in questo caso attingiamo dal disco. Sì. La traccia numero 3, Dyna. Dyna, sì. Dyna, sempre sì. Con Red Pellini al del 23. Alto. Del 23. Sì, scritta nel 1923, pubblicata nel 25. Cioè, l'epoca mia sempre. Sì. Come mai hai scelto questo standard? E perché è uno standard simpatico, carino, divertente, classico del jazz, classico appunto tradizionale. Non è e famosissimo quindi, rispetto a Stardust, Stormy Weather. È un pezzo che si suona molto nel Dixieland, con il Dixieland, insomma, e quindi sì, praticamente Crosby, è quel genere suonato, che faccio io, esatto, e poi l'hanno suonato più in là, insomma, l'hanno sì, cantato e anche suonato. Anche Josephine Baquet. Esatto, però insomma lei pure non è che è proprio dell'ultima, no, non, non è proprio fresca. No, insomma, non è fresca, cioè è un po' datata no. anche lei. Sì. E quindi insomma, però ecco, è nella mio, nel mio repertorio Dinah, cioè nelle io un pezzo, corde. Sì, addirittura c'è una cosa fatta con, l'unica cosa che io ho fatto, pensate, ho comprato una, come si chiama il Alessandro aiutami, il Jam Man, quella cosa per cui tu fai, è il campionatore dei suoni, con la voce, mi hanno detto, no, devi prendere, devi prendere, l'ho comprato, ho detto, andrò a fare le serate da sola, fichissimo, yeah, wow, zapov, vado lì, vado a casa, lo provo, e ho fatto una versione di Dinah che sta su MySpace, fra parentesi, e tutta così al volo e non l'ho mai più usato e invece è fichissimo, divertentissimo, però perché sono proprio così, insomma, come devo fare? E sta lì il Jam Man, prima o poi lo userò e mi farò i concerti anche da sola ogni tanto, non so, penso. Va bene, ci ascoltiamo allora da The Sun Inside of the Street, Francesca Ciommei con Dinah. Is there anyone finer in the state of Carolina? If the reason you know her, show her to me, Dinah. With her Dixie nice fancy, how I love to see them gazy for the eyes of Dinah Lee. Every night while I shake with fright, because my Dinah might change her mind about me. Oh, Dinah, if you wander to China, I'm doing your shit, Dinah. Just to be with Dinah Lee, oh, incontri dove la gente viaggia a telefonare col dopo barba che sa di pioggia e la 24 ore perduti nel Corriere della Sera. Nel vai e vieni di una cameriera. Ma perché ogni giorno viene sera? A volte un uomo è da solo perché ha in testa strani tarli, perché ha paura del sesso per la smania di successo, per scrivere il romanzo che ha di dentro. Perché la vita lo ha già messo al muro, o perché in un mondo falso è un uomo vero. Dio delle città e dell'immensità, se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Vediamo se si può farci amare come siamo, senza violentarci più con nevrosi e gelosie, perché questa vita stende e chi è steso dorme o muore. Oppure fa l'amore. Una lacrimuccia scendeva dal viso di Agostino. Per Agostino, hai visto che ti abbiamo fatto? La lacrimuccia scendeva. Senti, io ti dedico una cosa che leggevo tanto tempo fa, dicevo tanto tempo, tanti anni fa quando ero nelle radio negli anni Ottanta, e dice, te la dedico proprio a te, come tu hai dedicato una canzone a me, Francesca, io ti dedico queste parole, e che dicono: la tua grazia non fu mai superata da nessun'altra donna, e perché un uomo abbandoni ogni cosa, basta il racconto della tua stupenda bellezza. Mamma mia, Dio, sto diventando veramente, cioè c'è il rischio che arrossisca, ma forse no, perché è già caldo, insomma, non si vede niente. Ci piace. Ha arrossito Alessandro nel frattempo. Lo vedo un po' cagionevole. Io non ho grazie, è bellissimo. Io non ho parole. Qui stanno arrivando i messaggi. C'è Monica da confini dell'Alta Italia, insomma, che sta ascoltando. Dice: bravissima. Grazie. Quanto mi piace il mio genere. Mi scrivi il nome dell'artista, quindi l'ho scritto. E poi ancora mi è arrivato un messaggio da Giuseppina e Maurizio. Dice: grazie. Ci piace molto la trasmissione. La cantante è proprio molto brava. Complimenti. Grazie, grazie molto. Vediamo se ce ne trovo un altro. Bravi. Ho pagati tutti, questi. Bravi. Sì. Dice l'altro che non si è firmata. Dice: bravi, grande cantante e grandi musicisti. Grazie. Stai... Infatti, Alessandro. Sì, l'ha fatto in versione bossa nova. Bello, bello. Sì, sì. Ha sdoganato Uomini Soli. Finalmente ha sdoganato Uomini Soli. Monica dice: a me non verrebbe mai in mente di cantare così una canzone di Pooh. Si capisce che è una grande artista. Bella chitarra, brava, brava, brava. Grazie. E rendiamo omaggio anche ad Alessandro, sì, che è super carico regista. Adesso io sto parlando seriamente, Alessandro, lo sai come ti considero. E te lo ripeto, lo ribadisco per l'ennesima volta. Credo sia uno, se non il... uno dei più grandi chitarristi di Padova. Questo te lo concedo. Beh, secondo me anche io non conosco gli altri. Dice che ha bevuto. Sì. No, ma non è vero. No, non ha bevuto. Guarda che tu sei proprio bravissimo. Lui è il chitarrista dei Movie Trio, oltretutto, insomma, li citiamo. Prossimamente, sai, guarda, avete qualche concerto? Quando è che ce l'hai il prossimo concerto? Se qualcuno vuole sentire. Qua in zona siamo il 30 maggio. Il 30 maggio. Che siamo nella sala dei Giganti a Liviano. Bene. Qui in zona, sennò un po' fuori zona. Senti, già che stai parlando, ne approfitto. Che problemi se ne hai avuti? È stato arrangiare le canzoni con Francesca? È stato bellissimo. Abbiamo provato circa mezz'ora. Ah. Poi ad un certo punto mi ha guardato e mi ha detto: ciao, sono Francesca, tu chi sei? Ma dai, l'accordo è sono fatto. Il tecnico della radio. Sono l'accordo è stato perfetto. E poi ci siamo anche detti: tanto dopo non sarà così. Va bene, ok, sì, va bene, che abbiamo fatto? Grande, grande, insomma, grande Francesca. Senti, prima che poi ci dimentichiamo, insomma, i tuoi dati, se qualcuno volesse contattarti per organizzare, chiamarti, fare qualche concerto, eccetera, eccetera, in giro per l'Italia, sì, tu sei disponibile? Sì, sì, assolutamente sì. Allora, dunque, intanto sul mio sito web www.francescaciommei.it, per cui proprio semplicissimo, e lì sopra ci sono tutti i vari contatti, insomma, c'è il numero di telefono, c'è l'email, quindi non lo dico per tutta per la radio, ah, questo è il mio numero di telefono, perché pare brutto, insomma, non si fa. E quindi da lì, poi se uno volesse vedere proprio quello che faccio, magari su YouTube, i famosi video terrificanti, ma ce ne sono di vario genere, quindi dal jazz appunto tradizionale, al cabba jazz, a quello con gli Acustica Pop Trio o con i Dob, appunto, Dob, con Daniele De Salvo, e quindi ecco, e ci sono varie situazioni con Riccardo Biseo, insomma, ci sono varie cose. E se qualcuno volesse acquistare il tuo disco? Se qualcuno volesse acquistare il mio disco, glielo posso spedire, o il DVD, mi contatta attraverso il sito, mi manda un'email o mi telefona direttamente e vediamo, insomma, di mandarlo, ovviamente. Sì, sì, sì, sì. E se qualcuno volesse invitarti a cena? Beh, insomma, dipende da dove sta, perché se sta a Trento, come caspita faccio da Roma? Deve venire lui a trovarmi, se mi passa a prendere. Comunque dopo mi inviti a cena, perché certo, io sennò muoio di fame. Sì, andiamo a cena dopo. Anzi, se qualcuno vuole... Che materialona che sono. andiamo a cena fra poco. Sì. Senti Francesca, invece i prossimi concerti tuoi? Dunque, allora... il, quelli più imminenti, sì, diciamo. Il, dunque, aspetta. Il 12 aprile è venerdì, mi sembra. Sì, mi pare, e sì. Venerdì 12 aprile, comunque, dovrei essere al Ketumbar... E suonerò praticamente con gli Acustica Pop Trio e faremo appunto la serata con Eric Daniel al sassofono e flauto. E flauto, soprattutto il flauto. E flauto, e con Pino Iodice la chitarra e il looper. E lì appunto da Stevie Wonder. Spieghiamo un secondo cos'è il looper per chi non lo sa. La loop station, il looper è praticamente un altro campionatore di suoni, esatto, giusto? Sì. E che viene usato in questo caso in tempo reale, perché questo ragazzo suona in tempo reale. E crea degli arrangiamenti ritmici e anche armonici, perché insomma in tempo reale, quindi mano a mano che tu fai una canzone questo ti monta sul pezzo e diventa tutta una cosa, ti dà una cosa. Mano praticamente, sì, no, ma in generale lo sì, in generale, sì. Io poi faccio una serie di versi con la voce, perché io sono micidiale. Oltretutto c'è aggiunto anche, c'è anche una specie di harmonizer per la voce attaccato alla sua chitarra, ed è fichissimo, lo posso dire per radio, non è una sì, sì, così. Ed è bellissimo, perché appunto facciamo queste cose e quindi vengono fuori questi pezzi che sembriamo molti di più, ecco, sì. Bene. Però siamo solo tre. Ce l'hai una canzoncina veloce adesso, sì, che poi torniamo in studio e sì, ci salutiamo e poi faremo l'ultima e poi facciamo, poi facciamo l'ultima, sì. Bibappa Lula. She's my baby. Bip-bop-a-loo, don't make me. Bip-bop-a-loo, she's my baby. Bip-bop-a-loo, don't make me. Bip-bop-a-loo, she's my baby. Baby love, baby love, baby love. She's the one in red blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the one that I know. She's the one that loves me so, so, so, so. Bip-bop-a-lula, she's my baby. Bip-bop-a-lula, don't mean me, baby. Bip-bop-a-lula, she's my baby. My baby love, baby love, baby love. Bye. got that beat. She's the one with flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells me more, more, more, more. Beep-a-ba-loola, she's my baby. Beep-a-ba-loola, I don't mean Mabel. Beep-a-ba-loola, she's my baby. My baby love, my baby love, my baby love. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Grande, non l'avevamo provata questa, non lo sapevo. Dobbiamo dire una cosa. È la voce, la, non c'è uno strumento, c'è la voce qua, sì, è uno esatto. strumento. Sì. Dobbiamo sottolineare questo, cari ascoltatori, voi non vedete, però io noi vediamo. Non era una, non ce lo puoi di fare senza strumento. Perché io da piccola, sentendo Armstrong, volevo essere una sordina, capito? Ma avete sentito? Io sentivo la sordina di Armstrong e io volevo fare la sordina umana. Com'è che fai? Dai, ce lo rifai ancora? Pazzesca, pazzesca. Solo quella. Però così qua un po' meno, un po' meno, è meglio là. Qui, di là si sente meglio. Esatto. Grande, grandissima Francesca, grande. Eccoci. Eccoci. Allora, beh, insomma, siamo ancora qui qualche secondo, insomma, intanto, beh, i ringraziamenti sono doverosi perché ormai siamo verso la fine della trasmissione. Francesca, io è inutile che te lo dica perché tanto insomma in onore anche della nostra grande amicizia ormai da molto tempo a questa parte, però appena veramente te lo dico con il cuore in mano, appena c'è il disco pop pronto ce lo vieni a presentare qui. Sì, ma fra due anni, non so quanto ci metto. Facciamo un finanziamento, sì. Se c'ho gli sponsor pure subito, ve la faccio in pochi mesi, arriva. Per adesso, prima devo smaltire questo. C'è, che fa, poi è jazz, però. Ti fa i complimenti. Carla dice: bravissima cantante, grazie. Bellissima trasmissione. Grazie, Carla. Bravissimi poi, voi, bellissimi. E poi ancora grande questa cantante, complimenti, però non si è firmata. Insomma. Grazie. E poi magari l'ultima canzone gliela dedichi a tutti i nostri ascoltatori, quelli che ti stanno facendo tutti questi complimenti. Insomma. Assolutamente sì. E che mi fa piacere che ci sei valorizzata ancora di più con Blue Radio Veneto, insomma, questa sera. Almeno per quanto riguarda le frequenze qui nel Veneto, ma poi anche in tutto il mondo, perché ovviamente in streaming arriviamo in tutto il mondo. Quindi noi abbiamo contatti con l'Australia, con il Brasile. A proposito del portoghese, potrebbe essere interessante un contatto con il Brasile, giusto? Perché no? Perché no? Oh, che cosa mais linda, mais cheia di graça. Però non. Vai la menina che vem, che passa. Andiamo all'altro microfono. Doce balanço, caminho do mar. Moçado, corpo dourado do sol de Ipanema. O seu balançado e mais que um poema. E a coisa mais linda que eu já vi passar. Jubilo, grande. grande. C'è da sottolineare una cosa comunque. Dica. Che qualsiasi cosa tu canti, Alessandro è sempre pronto. Visto? No, veramente stavolta è lui che ha dato il là, perché sì. non era proprio da nessuna parte. Ha attaccato, io ho cantato. L'ho seguito. Non so, potresti fare qualcosa di Led Zeppelin, non lo so. È un po' difficile, Non mi ricordo i testi. Di Queen che gli piacciono. Non mi ricordo il testo, purtroppo, però ce li ho. Però la prossima volta che vengo li facciamo. Stairway to Heaven. Com'è che fa Stairway? So che ce l'hai nelle corde. No, ma non ce l'ho, lui ma se lui la sì, suona. Lui sì. Ma canti anche? Sì, con un litro. Qui ci stanno litri e litri di acqua, quella sì. Che con cui vado, con cui mi faccio io mi faccio di acqua. Dai che ascoltiamo qualche secondo di Stairway to Heaven. Stessa capigliatura fra l'altro di Jimmy Page. Sì, esattamente, molto fluenti, li hai molto fluenti. Insomma, questo è Alessandro Modenese alla chitarra, quindi Francesca si è scelta un chitarrista eccezionale. Bravissimo, ti ringrazierò sempre perché me l'hai presentato, è veramente grande. Ma ti sei fidata di me, questi sono i risultati. Sì, sì. Allora. Sì, ma? Yeah. Vuoi che abbiamo chiediamo... tempo? Sì, finché non mi arriva. Finché non arriva Renato, sì, abbiamo il tempo. Collega. Il collega. Sì, no, però insomma. Le sta arrivando. Se c'hai un'altra canzone, magari. È quella mia. È quella tua. È la mia, ma quella è quella che sta su. Ma ce n'hai un'altra. La facciamo da cima a fondo. Va bene, ma però una prima ce n'hai un'altra da fare, da quante regalare. Ne volete? Quello che vuoi. Un flash, dai. Quello che ma dopo, se non c'è tempo per. No, no, c'è tempo per la tua. Nel momento che arriva, ci salutiamo. Tu non ti preoccupare. Fai un'altra, dai, a tuo piacimento. Sì, sì, proprio quella. Velocità. Dico a bodudi papà bai bodudi bodudi tu papà papà papà bai papà bai papà bai papà bai my head come on flash up he come move it up slowly he get juju I'm only one holly roller he get hair down blows me. Got it in its jacket. It's just the water bleeds. You were not shoe shy. He got dungeon football. He got monkey finger. Shit. Coca-Cola, he said, I know you, you know me, yeah, what can I tell you, is you got to be free, come together, right now, over me. Avevamo Al Jarreau in versione femminile qui a Blu Radio Veneto. Grazie. Francesca Ciammei, splendida. Tradizionale. Eh sì, prima hai citato John Lennon con Viva Palupa, adesso è ritornato con John Lennon e Paul McCartney con Come Together. Pure questa non... E la prossima volta ci proponi Walk on the Wild Side, che lui sì. Diventa matto. Sì, perché sì, era un po' difficile, perché cari ascoltatori, voi non lo sapete, io quando ho visto la Francesca qualche ora fa, ho detto, non ce la posso fare, ho detto facciamo il pezzo di Lou Reed, è l'unico pezzo che non posso fare. Ma. Sì, perché non ho portato il testo dietro, è lunghissimo, intrecciatissimo. Intrigatissima, non me lo fanno fare mai. L'ha fatto tanti anni fa anche Patti Pravo, che è veneziana, sì. L'ha fatta un po' diversa da Francesca. I giardini di Kensington. I giardini di Kensington. Esattamente. Va bene, Francesca, noi siamo veramente onoratissimi di averti ospitato qui questa sera. Ci hai regalato una serata splendida. Grazie. Grazie di essere venuta qui da Roma. Ovviamente un grazie particolare ad Alessandro, perché lui, Alessandro Modenese, lui è sempre presente quando c'è bisogno. Grandissimo. Io sono grazie sempre Alessandro. Veramente onorato e sono sempre in debito con te, grazie. Alessandro, grazie. Sei un grandissimo amico, prima di tutto, insomma, un grandissimo musicista. Io vi do l'appuntamento a giovedì prossimo, non sabato. Sabato c'è Caroline che viene a trovarci dall'America. Dal Canada. Esattamente. Vi do l'appuntamento a giovedì prossimo con un altro special Dopo la buona novella abbiamo saltato proprio con Francesca quest'oggi, ma la settimana prossima c'è un altro special di Blu Radio Vento, cioè omaggiamo i 40 anni di un colossal, di un musical strepitoso, straordinario, e cioè Jesus Christ Superstar. Avremo in studio Vittorio Matteucci, Saba De Rossi, Pino Catarra e poi insomma altri artisti di quella compagnia che hanno messo in atto appunto questo musical. Quindi avremo un po' di musica dal vivo e un po' di musica dal disco, e faremo veramente, penso, venire la pelle d'oca, perché quello è il musical che ha lasciato la storia. Ripeto, 40 anni sono passati dalla prima visione. Esatto, sì, quindi sì. Vi aspetto all'ascolto giovedì prossimo, 11 aprile 2013 alle ore 21, qui sempre su Blu Radio Veneto. Agostino e Maurizio, vi auguro una buona notte, vero Maurizio? Certamente una buona notte e una buona musica. È una buona musica. Grazie. Adesso, dopo della canzone che ci saluta Francesca, c'è Renato Ferro con il suo heavy metal, hard rock. Quindi non cambiate canale, le trasmissioni continuano qui su Blu Radio Veneto, sempre in diretta. Prima però ci ascoltiamo l'ultima canzone. Francesca, dovevi dire qualcosina? Prima vi volevo salutare, vi volevo ringraziare, sono stata benissimo. E sono contenta anche perché ho rivisto Patrizia, carinissima, cioè, sono veramente molto contenta, mi ha fatto veramente molto piacere, insomma, ecco, sei stata bene. Sì, c'è molto fatto. Bene, e poi sono molto contenta anche di aver cantato, perché mi piace tanto cantare questa cosa, insomma, ovviamente così mi avete dato tanto spazio. Va bene. Guarda, grazie Maurizio, sei stato carinissimo. Grazie a te. Noi abbiamo fatto poco, abbiamo solo portato avanti il discorso che musicale. No, che poco. Te bravi. Ed Alessandro avete fatto tutto. Il collante, ma che collante? No, esattamente. Collante. Allora, ci saluti con l'ultima canzone, che è una canzone tua. Allora, sì, In Cima de mi vida, mia e di Daniele De Salvo, che appunto è quella che sta nelle varie colonne sonore sparse, quella che non mi rende una lira, ma amo tantissimo. Okay. In Cima de mi vida. Ciao Francesca, ciao Alessandro, grazie. Ciao a tutti, grazie. Yo no soy como es, que yo quiero tu venida. Y no soy porque tú estás encima de mí. Frío y calor, odio y amor, en tus manos es el mi ruego. Tú es aventura, tú es mi locura, y tus manos como el fuego. Vas como el águila en el en mi respiro, es el tu sustentamiento. Vas, toda mi vida tú me encadenas. Vas, el tu amor apaga mi pena. Do you care?